Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno, la trasmissione che ormai da oltre un anno vi fa compagnia, mi auguro piacevolmente, ogni mattina a quest'ora in replica alle 20:45. Di cosa parliamo? Ma ormai credo lo sappiate un po' tutti. Parliamo di soprusi, di abusi, di violazioni dei diritti, truffe, insomma tutto ciò che viola il diritto e la legalità. Oggi parliamo di un caso abbastanza comune purtroppo in Italia, vale a dire lo spreco di risorse pubbliche. Lo facciamo interessandoci di un'opera magari che possiamo anche considerare minore, vale a dire un parcheggio sotterraneo, ma che intanto tanto minore non è, perché serve una popolazione di un piccolo comune, e poi perché possiamo prenderla come il simbolo delle tante opere pubbliche più o meno importanti, più o meno costose, che in Italia vengono fatte e poi non utilizzate. Di esempi ce ne sono purtroppo a migliaia, sia in occasione di eventi pubblici nazionali importantissimi, pensiamo ad esempio agli scandali che hanno fatto seguito ai mondiali di calcio del 90, sia magari anche a manifestazioni minori. Il caso di cui ci occupiamo è accaduto ed accade a Carloforte, che è un comune in Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, è un paese sicuramente ospitale, anche un bel paese, che aveva evidentemente bisogno, almeno 20 anni fa così è stato stabilito, di un parcheggio sotterraneo costato svariati miliardi delle vecchie lire e che poteva essere utilizzato anche in altri modi, tant'è che sulla terrazza di questo parcheggio sotterraneo addirittura doveva essere inaugurata una piazza, insomma un luogo di incontro, un luogo di socializzazione, anche un luogo utile per parcheggiare le macchine, appunto. Solamente che passati 20 anni, questo parcheggio, che il giornale L'Unione Sarda addirittura titola come il parcheggio della vergogna, oggi sarebbe in mano ai vandali e non è mai entrato in funzione. Per cercare di capirne di più, visto che sono passati tanti anni, noi abbiamo chiamato a parlarne con noi il sindaco di Carloforte, Agostino Stefanelli. Buongiorno e benvenuto in trasmissione. Buongiorno a lei. E il capo dell'opposizione in consiglio, Marco Simeone. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, come avete notato, io non ho nemmeno citato quale sia la maggioranza che governa il paese né quale sia la minoranza, perché non mi interessa e perché qui siamo non per criminalizzare questa amministrazione, ma per cercare di capirne di più. Allora, sindaco Stefanelli, che cosa è successo di questo parcheggio? Come mai sono 20 anni che giace in questo stato? Allora, intanto c'è da fare subito una precisazione. La precisazione è che il parcheggio non è mai stato del comune. Il parcheggio è di proprietà del consorzio turistico per lo sviluppo turistico di Carloforte. Il consorzio turistico è formato dal Comune di Carloforte, dalla Camera di Commercio di Cagliari, dalla provincia che prima era la provincia di Cagliari, adesso è la provincia di Carbonia Iglesias, che ha acquisito i beni della provincia di Cagliari, e dal CIS, dal Credito Industriale Sardo. Quindi è un ente strumentale comunque di tutti questi enti che lei ha citato, questo consorzio turistico. Esatto, quindi l'appalto lo fece il consorzio turistico, il consorzio turistico acquisì anche il finanziamento, un finanziamento per rifare la piastrellatura delle strade interne di Carloforte, e tra l'altro c'era anche questo parcheggio e su c'era una piazza che è stata messa a posto da poco. Quindi il problema nasce dal fatto che nel 97 ci fu il collaudo di tutte quelle. Io sono andato a vedermele un po', a riprendermi tutti gli atti, certo, per vedere un po' le cose come sono andate. E sono andate così che nel 97 ci fu l'acquisizione da parte del comune di tutto questo lavoro fatto da un'associazione temporanea di imprese. Il commissario del consorzio, in quell'epoca il consorzio era commissariato, accettò tutto tranne quel parcheggio, perché c'erano infiltrazioni d'acqua, c'è un collaudo statico di tutto il manufatto, però all'interno c'erano delle infiltrazioni. Quindi c'erano degli errori di progettazione. C'erano in buona degli sostanza. Errori di progettazione. Non venne acquisito quel parcheggio e si tentò una mediazione. Intanto questa associazione temporanea di imprese, che era composta da Licori, che era il capofila, dalla Intercantieri, dalla Nuova Pavindustria e dalla Smesi, e queste imprese andarono in liquidazione. E quindi ci rimase in piedi soltanto questa Nuova Pavindustria, con la quale si tentò un accordo. Insomma, una storia vecchia. Una storia vecchia, perché hanno preso i soldi e poi, come dire, si sono liquefatte. Esatto. E non si sono messi d'accordo e sono andati in causa. Le cause in Italia purtroppo durano tantissimi anni, specialmente questo tipo di causa. È successo che a luglio del 2007 la causa è stata ultimata e purtroppo il consorzio ha perso la causa. E quindi dico, a questo punto cosa accade? A questo punto è accaduto che noi ci siamo insediati l'estate scorsa e io ho chiesto un paio di mesi fa al consorzio, perché lì c'è chiaramente una storia da mettere a posto, perché appena ci siamo insediati addirittura arrivò Canale 5 per fare pubblicità negativa su questo manufatto con Striscia la Notizia, no? Arrivo, certo. Addirittura Striscia la Notizia. Io ho acquisito, incomodato d'uso la mia amministrazione, 3 mesi fa, tutto il manufatto per tentare di metterlo a posto io, perché il consorzio ha perso la causa, il consorzio non ha disponibilità finanziarie tali da poter rimettere a posto questo manufatto, e 3 mesi fa l'abbiamo acquisito. La piazza soprastante è stata rimessa a posto, tant'è che quest'estate abbiamo fatto un paio di concerti, e mentre l'immobile è giù ci vogliono almeno 500-600 mila euro per rimetterla a posto. Io la fermerei qui, sindaco Stefanelli, perché ha ben raccontato la storia, e vorrei passare la parola a questo punto a Marco Simeone. Allora, quello che io mi domando è, appunto, leggendo questo articolo dell'Unione Sarda, che nel 2005 il costo stimato per far funzionare questo parcheggio, quindi sanare, o almeno così ci si augura, gli errori di progettazione, era di circa 300.000 euro. A distanza di 3 anni, abbiamo sentito adesso il sindaco, questo costo invece è stimato tra i 500 e i 600 mila euro. Allora mi domando, Simeone, ma è possibile che a pagare poi alla fine sia sempre direttamente o indirettamente il cittadino, con un costo economico e con un costo sociale, perché questo parcheggio di fatto non funziona? Purtroppo è così, guardi, una delle poche volte che sono d'accordo col sindaco Stefanelli, anche perché io, oltre ad essere che capo dell'opposizione, sono stato il predecessore di Stefanelli per 5 anni, dunque la pratica la conosco bene, è andata esattamente come ha descritto il sindaco. E quello che si poteva fare, diciamo, è stato fatto. Il consorzio, nell'ambito del suo potere, ha cercato di far valere i propri diritti, che secondo me erano legittimi, perché la struttura ha manifestato difetti occulti e palesi. Però, sa, alla fin fine, dopo 10 anni, cambiano i giudici, i ricorsi, i controricorsi, e come ha detto lei, alla fine paga sempre pantalone. L'impresa che ha costruito, secondo me, ha costruito male, secondo i tecnici periti che hanno analizzato, realizzato in maniera non congrua e non corretta, secondo i dettami logici del buon costruire questa struttura. La struttura presentava delle infiltrazioni, c'erano anche dei errori progettuali abbastanza grossolani, tipo le altezze minime per i parcheggi, dico, una cosa abbastanza imbarazzante, ma una volta tanto, le ripeto, il comune ha dovuto subire un'opera tanto attesa. Ecco, negli però anni, le chiedo questo, le chiedo tanta questo. Attesa è stata vanificata da un pessimo controllo dell'opera. Ecco, ma io, Simeone, vorrei interrompere proprio per chiederle è questo: com'è possibile che un'opera di questo tipo, e ripeto, l'ho detto in premessa, qui non stiamo né per criminalizzare i sindaci né le amministrazioni, ma per capire, com'è possibile che un'opera così importante non sia stata nel tempo controllata, anche se, come lei ha notato e ha detto, c'erano degli errori imbarazzanti? Perché non si pone mano man mano che si fanno queste opere, non alla fine, quando poi si va in causa e le imprese fuggono con la cassa, le imprese disoneste, sia ben chiaro? Perché così funziona in Italia. Questa è la realtà. Cioè, uno allunga la minestra il più possibile, cerca di apporre negli appalti varianti e controvarianti, eccezioni, per cercare di mungere il più possibile la cassa pubblica. Non c'è nessun rispetto per il lavoro pubblico, e di conseguenza è un andazzo che penso duri ormai da 40-50 anni. Non mi stupirei, mi stupirei al contrario. Ecco, se qualcuno riuscisse a fare delle opere, concluderle, è anche di buona qualità. Purtroppo non c'è controllo, a nessuno interessa che venga controllata. perché la politica ha foraggiato imprenditori da sempre, e di conseguenza io spero le cose cambino negli anni, anche perché insomma così avanti, è arrivata sotto al fondo del barile, certo, così avanti non si può andare. Io la ringrazio, dottor Simeone, per il suo intervento. Mi sembra doveroso lasciare l'ultima parola al sindaco Cosino Stefanelli di Carloforte, e una domanda sprint e una risposta sprint: quando i vostri concittadini potranno, a suo giudizio, finalmente parcheggiare in questa struttura costruita da oltre 20 anni? Quando sarò in grado di acquisire un finanziamento di almeno 500.000 euro, altrimenti dovrò contrarre un mutuo. E quindi io spero che fra un anno potremo dire ai nostri cittadini, concittadini, di parcheggiare in quella, in questo famoso parcheggio, però non li rado per certo. Assolutamente, noi saremo qui di nuovo per averla, nostro gradito ospite, se ci saranno novità. Nel frattempo io la ringrazio, e con lei ringrazio in regia Valeria Bernardi, in studio Laura Faggina. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.